nel barrio ne gritan salciccia. Ci sono un cento di salto la figgia, la donna è più lanciante che un miro. Salto la figgia, è la prima miro. Salto la figgia, è la prima miro. Tutto nel barrio ne gritan salciccia. Ci sono un cento di salto la figgia, la donna è più lanciante che un miro. Salto la figgia, è la prima margina. Salto la figgia, è la prima miro. Nel barrio ne gritan salchicha. Si sos un cento te salto la ficha. La donna è più lanciante che un miro. Te salto la ficha, è la prima miro. Te salto la ficha, è la prima miro. Todo nel barrio ne gritan salchicha. Si sos un cento te salto la ficha. La donna è più lanciante che un miro. Te salto la ficha, è la prima miro. Te salto la ficha, è la prima miro. Subimos el licor.